as you're born, they make you feel small. Per il rispetto del lavoro. Insomma, noi vogliamo il pane, ma vogliamo anche le rose. Working class hero is something to be. Eccoci qui di nuovo a Del Pane alle Rose. Oggi andremo molto velocemente perché abbiamo un ospite molto gradito, Antonio Forlano, un dirigente della FILT, delegato RSU dell'UPS di Milano, un combattente, un compagno. Sentiremo da lui le novità per quanto riguarda sia il contratto nazionale sia la battaglia che stanno facendo per promuovere il no, perché diversi compagni non sono d'accordo su questo contratto, pensano che sia un contratto, quello che è stato firmato, che non contenga delle condizioni decenti per poter essere firmato e votare sì. Ecco. C'è una campagna per il no che hanno organizzato, io li ho seguiti, adesso ci racconteranno un po' quello che hanno fatto, quello che è successo, e insomma, ascolta Antonio Forlano. A dopo. Resto, vieni qui, ma su non fare così, ma non li vedi quanti altri bambini. Che sono tutti come te, che stanno in fila per tre, che sono braghe che non piangono mai. È il primo giorno, però domani ti abituerai e ti sembrerà una cosa normale fare la fila per tre, risponder sempre di sì e comportarti da persona civile. Hey! Mi insegnerò l'amore, a recitar le preghiere, la patria e la bandiera. Noi siamo un popolo di eroi e di grandi inventori, discendiamo dagli antichi romani. E questa stufa che c'è e poca sta pena per me, perciò smettetela di protestare e non fate rumore quando arriva il direttore. Tutti in piedi e battete le mani. Hey! Ciao. Allora, il contratto nazionale è stato sottoscritto, è stato confermato attraverso una consultazione che le organizzazioni sindacali confederali hanno promosso con data di scadenza 25 gennaio. Hanno segnalato che sono state fatte 1500 assemblee, hanno partecipato oltre 66.000 lavoratori. E stando alle cifre, ben 96,76% è risultato favorevole. Mentre invece i contrari, quelli come me ed altre rappresentanze, hanno raccolto un esiguo 2%, circa 1300 voti. Ora, certamente questo voto il bulgaro rende inappellabile il risultato, e certamente la Bulgaria è una quisquiglia se confrontato a questo dato. Però, non conoscendo il come è stato presentato, visto che il comitato non ha avuto legittimità né riconoscimento da parte delle organizzazioni sindacali per poter partecipare, interloquire con i lavoratori, il risultato che è stato predisposto o che è stato dichiarato è questo. E certamente adesso sarà la volta della realtà a segnare il passo e quindi a rendere possibile che quei risultati che loro considerano eccezionali nel consenso dovrà dare dispiegamento. E certamente quella situazione in cui noi abbiamo costruito come RSU, RSA, che ci siamo riuniti in un comitato, per noi la battaglia continua, perché la democrazia sindacale non va mai in soffitta, soprattutto quando purtroppo i metodi sono sempre gli stessi e il merito delle rivendicazioni sono sempre più inadeguati. Se diciamo che sono 30 anni che i salari e la precarietà aumenta, ci sarà pur una ragione. Certamente la cosa che rende e stupisce di questa situazione è che il movimento sindacale e i sindacati confederali, in un contesto come quello attuale, in cui la manifattura è in continua perdita di forza e punti di PIL, il settore dei trasporti invece continua a crescere e cresce da decenni. Pertanto avrebbe potuto offrire ai lavoratori quella discontinuità rispetto ai periodi precedenti, alle richieste che sono avvenute in periodi precedenti e non stare, come spesso accade, a demonizzare, cosa che si fa molto spesso in altre occasioni, dove il problema nell'economia italiana sono i bassi salari, i pochi diritti, la mancanza di stabilità. E poi quando invece si hanno le condizioni per poter mostrare un minimo di forza e soprattutto un confronto serrato come quello che si era venuto a determinare proprio a dicembre, in cui il 9 e il 10 viene dichiarato lo sciopero del settore, che succede? Che le confederazioni e le massime rappresentanze del nostro sindacato si chiudono in un conclave con le controparte per far cosa? Per arrivare a un contratto che serva a scongiurare lo sciopero. E chiaramente a beneficio sicuramente è la firma di un'ipotesi d'accordo, ma poi quello che conta è andare a verificare che cosa si è portato a casa. E quindi, se da un lato si sono perse delle opportunità, il gridare o comunque osannare che questo contratto, che è stato modificato per almeno il 30% del suo valore complessivo, abbia determinato maggiori diritti e migliori salari, questa cosa qui è la cosa che più lascia perplessi. Quindi è chiaro che è molto importante di come questo sia stato presentato nelle assemblee. Ora, nessuno nega che ci sono state in questo rinnovo delle proposte innovative, però queste sono, come dire, innovazioni legate ad una civiltà che fortunatamente non si perde per strada, tipo per esempio il pagamento della malattia oncologica o quello delle malattie per le cooperative, a cui già la giurisprudenza ha dato diverse risposte, quindi sono sicuramente segnali importanti, ma non quelli decisivi ad avere un cambio di passo complessivo per la categoria. Quindi ben vengano i cambiamenti che ci sono stati, ma decisamente insufficienti. Ma di quei diritti, in realtà si è andato a fare uno scambio con carta bollata, e questo adesso la spiego meglio. Però comunque andiamo un po' con ordine su questo rinnovo. Innanzitutto sul salario, che è il tema clou centrale per tutta la categoria, come di fatto per tutti i lavoratori. Loro hanno sostenuto che c'è stato un recupero inflazionistico. E la cosa, mi dispiace, non è vero. E non perché lo diciamo noi, ma perché lo smentisce lo stesso centro studi di Vittorio, che in un'analisi proprio sui salari, e guarda caso, proprio per il periodo 2021-2024, in cui l'inflazione è stata del 16,6%, il nostro contratto nazionale, compreso in un recupero salariale avvenuto per l'inflazione persa nel 2023, almeno per una sua parte, comunque ha prodotto in questi 4 anni un aumento complessivo del 9%, oltre del 9%. Quindi comunque noi abbiamo lasciato a terra a fine 2024 il 6% di salario, e stiamo ragionando soltanto dal 2021. E il 6% di salario sono tra i 5.000 e i 7.000 euro complessivamente. E il programma dall'altro poi prevedeva un aumento a regime del 18%. Questo era il programma politico. E cosa abbiamo portato? Allora, stando alla propaganda sia delle aziende e del sindacato che hanno concordato l'ipotesi d'accordo, ora contratto nazionale, parliamo di 260 euro per l'autista B3, solitamente considerato il famoso camionista, e 230 euro per un lavoratore non mobile impiegato terzo super. E tutto questo a regime nel 2027, quindi non sono 230-260 cash subito, ma vengono distribuiti per un periodo di oltre 3 anni. E complessivamente questo produce un miglioramento salariale di circa il 12%. Ma qui stiamo però giocando con i numeri, perché anche questo non è vero. Perché l'aumento che noi andremo a portare con questo rinnovo contrattuale contiene lo stesso valore che noi abbiamo acquisito dal marzo 2024, che è il valore ICE dell'inflazione 2023. Pertanto, soltanto facendo un esempio della prima busta paga che cambia, che sarebbe gennaio 2025, rispetto a dicembre 2024, il reale aumento non sarà e non è stato di 120 euro, ma praticamente poco meno della metà. Perché? Perché viene praticamente riportato la busta paga non a quella di dicembre, ma a quella di marzo. Quindi di conseguenza c'è un mettere indietro l'orologio della nostra busta paga. Certamente se uno vuole approfondire questo e capire meglio, basta che vada nel nostro sito trasportinlotta.it, dove troverà molto di questi argomenti. Quindi, insomma, in un periodo così lungo di crescita del settore, di grandi profitti delle imprese, non è stato raggiunto quel vero risultato che poi loro stanno mistificando. E non si può assolutamente pensare che questo sia stato realizzato anche semplicemente con l'eliminazione del salario d'ingresso, che è il valore del sesto J, che è stata sicuramente un qualcosa di certamente positivo, ma stiamo parlando di una debacle del 2013, cioè noi abbiamo questo problema che è stato introdotto, questo salario di ingresso nel 2013, che ha portato in questo settore un super sfruttamento ed anche ovviamente ad una conflittualità operaia che si è espressa in molte vertenze importanti, ma anche laceranti ed umanamente, se vi ricordate, anche con situazioni tragiche e quindi di morti di alcuni lavoratori e sindacalisti. Così pure non possiamo definire questo aumento meritorio con l'introduzione dell'EPA, perché l'EPA non è altro che un spacchettamento del minimo tabellare in due voci, uno chiamato minimo tabellare in base al livello e poi questo valore nuovo chiamato EPA che tende invece a comprimere i salari perché lega due livelli successivi insieme con un valore identico. E questo, se per loro è il modo per migliorare la professionalità, lo vedremo nel prossimo periodo, perché la professionalità non si esprime con la compressione dei livelli. E così pure gli inquadramenti che loro hanno dedicato molto tempo nel discutere del come rivisitare e come aggiornare questo, dando valore soprattutto all'aspetto della professionalità e della digitalizzazione, in realtà è stato uno strumento per sistemare la professionalità delle figure apicali del nostro contratto e non dei lavoratori del nostro contratto che di digitalizzazione ne fanno grande uso nei magazzini, ma che non produce alcun effetto migliorativo dal punto di vista dei loro livelli. E questo non soltanto per chi ci lavora adesso, ma anche per chi ci lavorerà nel futuro. Noi sappiamo che questo è un settore di crisi di manodopera. Perché? Perché costa troppo poco. I lavoratori, gli autisti professionali che non si trovano, cioè parliamo dei camionisti, a conti fatti tra ore di lavoro e la professionalità, la responsabilità e tutto quello che comporta nel lavoro del camionista, non dà quello stesso valore. Infatti non è un caso che molti camionisti sono scesi proprio da quel camion con tutto il loro fardello per intraprendere altre attività perché era assolutamente improponibile. E quello che possiamo vedere anche come c'è una ricerca spasmodica di figure operaie, di figure manovali, in cui si fa fatica a trovare semplicemente perché questo salario, soprattutto anche quello che si verrà proposto, sarà un salario debole. E quindi inevitabilmente le figure che si troveranno in questo settore saranno figure deboli. E nel nostro settore questo non è che far aumentare la precarietà. E questo non aumenta soltanto per una questione salariale, ma viene alimentata da un contratto nazionale che anziché diminuire la precarietà, la fa aumentare. Si sposta l'asticella della precarietà dei contratti cosiddetti precari fino a un massimo 41% della forza lavoro non mobile. E si potrà anche arrivare al 47% in un singolo stabilimento, mentre per gli autisti si potrà arrivare al 37%. E questo non significa far migliorare la forza lavoro e poi produrre una stabilizzazione, ma significa invece inserire un cuneo nelle rivendicazioni. Praticamente il sindacato in questo caso non ha fatto il proprio mestiere. Perché si è reso complice proprio del problema più grosso, e cioè rendere stabile l'attività, ha creato un meccanismo in cui lo rende ancora più instabile. Poi è vero, cioè noi con questa campagna che abbiamo fatto sul contratto nazionale abbiamo fatto decine e decine di volantinaggi con le nostre rappresentanze e soprattutto con la grossa collaborazione dei compagni dell'area Giornate di marzo dei diversi settori in moltissimi impianti e abbiamo visto un cambio di passo anche degli stessi lavoratori, soprattutto precari. Io che ho un'esperienza lunga, ogni volta che ho avuto a che fare con precari, ho sempre avuto un po' questo atteggiamento da chioccia, un po' paternale, di non sovraesporre per evitare il facile licenziamento. Qui invece ci siamo trovati a una nuova figura di classe, una classe di lavoratori che invece è molto più disinibita, meno credulona nelle promesse, molto più combattiva e che probabilmente darà molto filo da torcere. Ma il sindacato non ha permesso che queste figure di lavoratori trovassero un miglior e agevole soluzione delle proprie condizioni di lavoro, ma le ha peggiorate. E questo è un grave fatto che noi troviamo nel contratto nazionale. Per finire, giusto per andare per sommi capi, il tema centrale che noi avremmo voluto che si ponesse come un'inversione di marcia è quello sull'internalizzazione. Ora, questo tema è diventato, diciamo, un po' di moda, un po' clou anche nel movimento sindacale, quando poi in realtà viene da lontano e noi siamo tra quelli nel mondo di UPS che ha fatto dell'internalizzazione lo strumento di unificazione del conflitto tra il mondo dei diretti e il mondo degli indiretti. Ma anche se questo essere stati pionieri, non siamo stati noi, ovviamente, lo dico con sincerità, a renderlo molto e di massa questo tema, ma ci ha pensato in realtà la magistratura, che un po' per fama per soldi, un po' perché questo settore non faceva altro che crescere alle spalle di altri e lo Stato nel vedersi questi settori così ricchi e necessi di necessità fa hanno fatto virtù con la sua guardia di finanza, con le inchieste che ci sono state, hanno permesso in un certo senso di colpire quelle multinazionali che sono di fatti quelle che governano il settore in questo gioco improprio, un gioco sporco dove prevale il famoso lavoro nero o quello grigio, dove sono loro a dettare i prezzi dei costi della manodopera attraverso le società di comodo che sono state chiamate, ormai diventate diciamo, luogo comune di serbatoie di manodopera, società serbatoie di manodopera. E pensare che queste inchieste hanno prodotto delle entrate enormi allo Stato con sequestri veramente incredibili. L'ultima è quella della FedEx, appena oltre 40 milioni di euro. Ma altre aziende, altre multinazionali hanno avuto sequestri altrettanto, se non il doppio, come quello avvenuto in UPS o quella di Amazon, oltre 100 milioni di euro, che hanno prodotto in effetti un capitale sequestrato di oltre mezzo miliardo. E a tutto questo, che cosa propone il sindacato nel contratto nazionale? Ulteriori elementi e regole per poter regolare il mondo degli appalti e non fare una battaglia senza se, senza ma sull'internalizzazione, dove queste invece sono reali, possibili, che in particolar modo nelle grandi multinazionali. E quindi semplicemente si è prodotto altra carta su carta che le imprese dovranno nella loro modulistica garantire, ma senza risolvere il vero problema, e cioè che il profitto non è altro frutto del sangue, del sudore, dei lavoratori che vengono sfruttati. Quindi un settore molto ricco che proverà a gestire una forza lavoro che continuerà ad essere a buon prezzo, più precaria. E forse nel loro intento anche più remissiva. E penso che è proprio questo quello che mancherà in questo meccanismo di contratto. E quello che penso che invece accadrà, soprattutto anche con le prossime contraddizioni che il sistema del mondo dei trasporti produrrà per effetto di fatti internazionali, del commercio internazionale, invece una profonda e forte crescita della lotta di classe. E questo grazie a tutte quelle forze in campo che si adoperano in questo settore e che permetterà proprio di evitare quell'arretramento. Grazie alle multinazionali che in realtà hanno aggregato comunque importanti forze, cioè è stato di fatti costruito una situazione dove i miglioramenti che si sono avuti in questi anni faranno effettivamente fatica ad arretrare, perché questo blocco che si è venuto a costituire può essere di fatto il miglior argine per ulteriori deperimenti da parte del contratto nazionale, perché il contratto che dovrebbe migliorare le condizioni di tutti, in realtà sta facendo il lavoro contrario da un po' di decenni a questa parte. E su questo proprio voglio accennare un pezzo di questi che sono i conflitti dentro le grandi strutture, le grandi multinazionali che possono fare argine. Per esempio, nel settore in cui noi siamo, in questo caso è nel mondo di UPS. Black to do your head. Give a shout out to my left and dead. Allora, abbiamo ascoltato questo piccolo pezzo musicale, abbiamo ascoltato Antonio Forlano che ci ha parlato del contratto che è stato firmato il mese scorso dei trasporti, ci ha spiegato le motivazioni del no, la creazione di questo comitato di autotrasportatori che hanno chiesto ai lavoratori di votare no, non hanno vinto, però comunque sia hanno delle ragioni valide, Antonio ce le ha spiegate benissimo. Purtroppo questo contratto tradisce alcune aspettative che avevano i lavoratori, soprattutto quelli più combattivi, e all'interno di UPS cercheranno in tutti i modi di cambiare le situazioni con la contrattazione interna. Questa è la prima parte dell'intervista, ci sarà una seconda parte, perché l'intervista è stata molto lunga. La prossima puntata o quella dopo ascolteremo Antonio che ci spiegherà quello che vogliono fare in UPS. Insomma, io spero che sia stato interessante. Il mondo dei trasporti è un mondo in evoluzione, è un mondo che ha spiegato Antonio, c'è un sacco di soldi che girano per non parlare di Amazon e non solo Amazon. L'e-commerce ha dato una grossa spinta, la delocalizzazione anche. Comunque è il futuro per molti questo settore ed è giusto che i lavoratori lottino per avere delle condizioni del salario sempre più, insomma, di condizioni migliori e un salario decente che possa concedere ai lavoratori sia il pane che le rose. La prossima puntata. Orgoglioso de estar. Orgoglioso.